Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Terza puntata. Cittadina balneare sulla costa meridionale della Francia, vicino a Nizza. Un tempo era territorio dell'Italia e qualcosa del fascino italiano conserva ancora oggi. Sulla costa il porto, il quartiere dei pescatori, un odore acre, salso, di cordami impeciati, barche, reti e pesce. Lungo le strade a terrazze sul pendio della montagna, ville e alberghi, profumo di rose e di glicine, di viole, magnolie e aranci in fiore. La nostra villa è appollaiata sul fianco di una collina rocciosa. La mia camera e quella del mio compagno sono al piano superiore. Sulla terrazza si apre una grande vetrata. Giù, dal giardino, salgono fino a noi le rose rampicanti. Ogni mattina si schiude e fiorisce una corona di fiori nuovi e vivi. Oltre la scala c'è la stanza del compagno Bilit, il laboratorio segreto della dinamite. Tutti noi qui apparteniamo alla formazione di combattimento del Partito Social Rivoluzionario. Mio marito Lev, io, Bilit, Raquel Lurier, Volodia Azaf. Qui ho concepito la mia bambina, la mia unica figlia. Da ogni finestra vedo il mare, grande e azzurro. Voglio che la mia bambina abbia occhi così, azzurri alla luce del sole e grigi, freddi come l'acciaio nella tempesta. Il fragore delle onde, il frusciare dei pini, il profumo dei fiori, acri vapori velenosi di acidi e l'odore dolciastro e soffocante della dinamite. Così anche dentro di me, tenerezza e trepidazione della prima maternità, felicità gioiosa di sposa, il lavoro in laboratorio assieme ai preparativi per il viaggio in Russia. Questa creatura amata, tanto desiderata e cara, fiamma azzurra dell'amore, è abbandonata già prima di nascere, condannata ad essere orfana. Non abbiamo dubbi né esitazioni, siamo abituati ad essere sinceri con noi stessi come lo siamo con gli altri. Siamo certi che la nonna potrà allevare questo esserino nuovo e nostro, come già allevò suo figlio. Io lo amo, suo figlio, alle mani di lei affiderò la mia creatura. In poco più di 3 mesi il nostro lavoro è finito. Dobbiamo partire per la Russia. La dinamite la nasconderemo sotto gli abiti, sui nostri corpi. Indosso una gonna grigia a pieghe lunghe e profonde, sopra una giacca e sotto una pesante corazza di dinamite. Ho con me valigie di lusso, con dentro ogni specie di aggeggi femminili e cosmetici. Il passaporto? Falso. Il funzionario della dogana. Come mai non ha acquistato toilette all'estero, signora? Rido, perché mi preoccupano i doganieri. E del resto anche da noi, a Odessa, si può trovare quel che si vuole, purché si paghi, si intende. Mi chiede se per caso non abbia roba di contrabbando. Sono tutta di contrabbando, ma il funzionario non può saperlo. Con Lev devo incontrarmi a Berdyshev, in un albergo il cui nome cominci con la B, Bristol o Boston o Bruxelles. Contavamo che uno di quei nomi ci fosse. Lì riceverò da lui istruzioni sul luogo in cui recarmi, indirizzi, parole d'ordine. È la fine di maggio, i giorni della guerra russo-giapponese. Berdyshev. Vicino alla stazione, in attesa, cocchieri miserabili su carrozze sgangherate, trainati da scheletri ambulanti. Una miseria così, in vita mia, non l'ho mai vista. Ho appena pronunciato il primo dei nomi d'albergo convenuti, Bristol, e già la carrozza si è messa in moto scricchiolando e gemendo, traballante come uno zoppo sul selciato sconnesso della strada fiancheggiata da alberi rachitici. Ad ogni angolo, davanti a ogni uscio, donne e bambini cenciosi e affamati, uomini consunti da piaghe e malattie, tendono la mano per chiedere l'elemosina. Arriviamo ad un portone lurido, oscuro, maleodorante, che non promette niente di buono. e all'improvviso mi rendo conto del tremendo equivoco in cui sono caduta. Ma, sia quel che sia, devo farmi dare una camera qui, perché è al Bristol che Lev mi cercherà. Indosso un lussuoso abito parigino. Cammino avvolto in una nuvola di profumo francese, né rossetto né cosmetici sul mio viso, solo lo splendore della giovinezza. Cosa cerca una cotal signora in quell'antro di corruzione? Non ho ancora avuto il tempo di togliermi il cappello e riordinare i miei oggetti da toilette, che già si fa vivo il cameriere. Il classico tipo del servo da postribolo, proprio come me l'ero immaginato leggendo i romanzi sulle prostitute. Basso, tarchiato, le mani lunghe, forti e pronte alla presa come quelle di un gorilla. Gli occhi piccoli e scuri spuntano di sotto alla fronte bassa con uno sguardo fosco, privo di misericordia e di vergogna. Stupita, mi chiedo com'è possibile che ebrei come questo esistano davvero. Esamina il mio passaporto, emesso ad Odessa, ma con il timbro di Nizza, e subito comincia a propormi i buoni partiti di cui dispone. Io? No, aspetto un ingegnere che deve venirmi a prendere qui. Lui? E perché accontentarsi di un ingegnere? Se volete, il padrone può rimediarvi anche un milionario. È chiaro che devo stare al gioco e adeguarmi al luogo onorevole in cui mi trovo, dico. Non ho bisogno del tuo padrone. Vengo dall'estero, so molte lingue, sono abituata alla migliore società. E che significa? Ho per le mani un farmacista, un ricco possidente che sa di musica e anche di lingue. Quanto di meglio si possa desiderare? Non vi garba? E allora ecco, ho il signor comandante della polizia, in persona. Cosa volete di più? E già, davvero, cosa voglio di più? La situazione è davvero seria. Sola, in una città sconosciuta, con il passaporto falso, carica di dinamite e di altro materiale per la preparazione delle bombe, prigioniera in un lupanare da cui non mi lasceranno uscire perché l'onnipotente signor comandante della polizia attende la sua preda. Non ho scelta. Devo continuare a recitare la mia parte, far passare il tempo fino a stasera. Da qui a stasera Lev avrà il tempo di arrivare. E verso sera Lev arrivò. Vide il mio nome, Shmulevich, nella lista degli ospiti, e chiese di essere condotto da me. Richiesta che non venne esaudita, giacché la signorina Shmulevich è destinata alle alte sfere. Fortuna volle che l'unica camera libera fosse quella accanto alla mia e che le due stanze comunicassero fra loro attraverso una porta chiusa a chiave. Lev parlava intenzionalmente a voce alta, ma proprio quando la voce che tanto desideravo udire giungeva al mio orecchio, proprio allora bussarono alla porta. Entrò il padrone dell'albergo. Seduta su un divano accanto alla porta chiusa a chiave, lo invitai a sedersi a sua volta. Da principio parlò con qualche riguardo, come si trattasse di questioni remote. Per parte mia mi sentivo come in una commedia. Una situazione del genere non riuscivo a pensarla come reale. Ma ecco, all'improvviso, qualcosa di molto concreto. Come gradite, signorina? Subito o più tardi? Magari prima vi va di farvi un giretto, che so, alla stazione? Certo, prima voglio andarmene alla stazione a bere qualcosa e a spassarmela un po', a veder gente e a farmi vedere. Ma adesso desidero riposare, perciò fate il favore di andarvene. Uscì per incontrarmi poi più tardi alla stazione. Calma, calma, mi dico. Nelle tenere e oscure profondità del mio corpo di madre matura il mio frutto, il mio bimbo, e io difendo la sua pace. Lev udì la conversazione. Ordinò subito che i miei bagagli fossero trasferiti da lui, ma si ebbe un secco rifiuto. Accanto alla mia porta, ad impedire l'ingresso di chi che sia, il cameriere gorilla vigilava. Ma negli occhi grigi di Lev, sempre malinconici e buoni, c'era quella volta una tale determinazione che il servo stolido, come una bestia domata, si trasse da parte. Lev, senza aspettare il conto, pagò e andammo alla stazione. Solo allora, dopo aver ripreso animo accanto a colui che amavo, grazie alla tenerezza e alla forza che c'erano in lui, potei, tutta scossa, dar libero corso all'emozione e dirmi finalmente quale pericolo enorme avessi corso come donna e come madre in quel luogo di malaffare. Per alcune stazioni viaggiammo insieme. Lev non si risolveva a lasciarmi sola. Poi ci dividemmo. Io verso Odessa, a Liman Hangbai, e lui verso Kiev, Mosca, Pietroburgo, per il lavoro dell'unità combattente. Venne l'autunno. Nei Liman la stagione finì, si chiusero le stazioni termali e gli alberghi. I compagni mi comunicarono che dovevo trasferirmi a Teodosia, dove presi in affitto una camera in una villa isolata presso un'anziana signora intelligente e colta, amante della musica e delle buone maniere. Qualche tempo dopo mi raggiunse anche Rachel Lurier. La mia gravidanza volgeva al termine. Dovevo trasferirmi all'estero e Rachel avrebbe rilevato i compiti che avevo nel lavoro illegale. Figurava come una gentildonna della casata degli Stepanin, maritata, proveniente da Saratov. Non molto tempo dopo, a Teodosia, avvennero i fatti del 17 ottobre. Il manifesto delle libertà e subito dopo omicidi isolati, violenze, azioni di massa contro ebrei e intellettuali. La villa in cui vivevamo era fuori città, ma il pogrom si stava avvicinando. Un mattino entrò in camera mia la cuoca, un tipo classico di contadina russa, e disse: «Statemi a sentire, signora. Preparatevi che vi porto al villaggio da mio fratello. Fra un po' verrà a prendermi un amico mio, un carrettiere, perché stanotte verranno qui a fare guai. E cosa sarà di voi a quel punto? Siete già avanti con la gravidanza. Al parto ci manca poco». Accettai naturalmente, ma pensavo alle mie valigie. Rachel partì insieme a me e avevo un bagaglio simile al mio. Strada facendo, il carrettiere ci raccontò dei cortei con il ritratto dello zar, degli omicidi, dei saccheggi e delle violenze, dell'acquavite e del denaro che gli uomini dei cento neri distribuivano. Poi soggiunse: «Ecco, ora vi condurrò nel luogo stabilito. Poi tornerò indietro, mi farò un goccetto e uscirò a suonarle agli ebrei». Io: «Bere, perché?». Con semplicità, tranquillo: «E come si fa a far cose del genere senza farsi un goccetto?». Cominciarono i disordini. Rivolte di contadini e scioperi scoppiarono in Russia e in Siberia. Le ferrovie scioperavano l'una dopo l'altra. Volodya Azaf venne da me per dirmi che Lev e alcuni compagni fidati mi aspettavano all'estero e mi diede istruzioni sul come e dove avrei trovato i contrabbandieri che mi avrebbero guidata al di là del confine. La mia premurosa padrona di casa mi aiutò a preparare il corredino. Chissà, forse non avrei fatto neanche in tempo ad arrivare a destinazione. Pensava che fossi diretta a Saratov e invece partivo per Ginevra. Volkovinsky, Kivarti. Passai il confine a piedi, accompagnata da una guardia di frontiera. Poi l'enorme ponte della ferrovia che attraversai da sola, reggendo con una mano la gonna. Si portavano vesti assai lunghe allora, e con l'altra la valigia. Fischio di locomotiva, fracasso di ruote sui binari metallici, grida di macchinisti. Ecco, dinanzi a me le luci di Eidtkunen. A Ginevra arrivai verso sera. Subito mi recai da Osip Minor, dove seppi che Lev e alcuni altri compagni sarebbero partiti la sera stessa da Parigi per tornare in Russia. Non avendo più avuto mie notizie, andavano a cercarmi. Che fare? Mi ricordai d'un tratto che Ginevra è avanti di un'ora rispetto a Parigi. Forse un telegramma li avrebbe raggiunti in tempo. Minor mi accompagnò alla stazione e telegrafammo a Parigi. Il mattino seguente Lev mi venne incontro alla stazione di Parigi. Lyuba Azef gli aveva consegnato il telegramma quando già era seduto in treno. Fui costretta a letto per un paio di settimane e Lev rimase con me. Gli altri compagni partirono il giorno dopo per la Russia, dove dovevano compiere nuove azioni. Decidemmo che la cosa migliore per me era che mi trasferissi a Berna, dove le condizioni di vita erano migliori che a Parigi e dove soprattutto era più facile ottenere la legalizzazione del bambino che stava per nascere. Lev non poté trattenersi con me a lungo. Lo chiamarono in Finlandia, dove avrebbe dovuto allestire un laboratorio segreto per il partito. giacché si supponeva che ci sarebbe stato un gran bisogno di dinamite. Una sola volta Lev vide sua figlia, a Mosca, e non ci fu concessa neanche un'ora in cui le nostre teste si chinassero sulla culla della nostra bambina. Avemo soltanto ore in cui le nostre teste si incontrarono, chine sulle mie mani e sui minuscoli, graziosi vestitini che cucivo e ricamavo per lei. Una camera grande con due finestre, un mobilio estremamente disadorno. Nella stanza si muove una figura di giovane donna. Indossa un abito lungo e semplice, ha il capo coronato da un doppio giro di trecce. Il suo sguardo si posa con amore sulla figlia ancora in fasce e la sua voce sommessa compone canzoni. La sera arrivano lettere da lui piene di nostalgia per loro, le due lontane. Ogni riga è piena dell'amore e della preoccupazione per loro. Non può fare niente per loro, la sua vita ad altro è consacrata, in nome della vita stessa, che non ha senso la vita altrimenti. Poi scrivo a lui di me e della piccola colomba celeste. E quando là, nella lontana Finlandia, riceve queste lettere, anche a lui sembra di essere vicino a sua figlia e l'accarezza con dolcezza. Quanto affetto e quante carezze potremmo prodigarle se... Una lettera si conclude con un appello lontano e anelante. Quanto sarebbe bello, proprio da impazzirne, se potessimo incontrarci. Sono passati 3 mesi. Ti aspettiamo. Feci i preparativi necessari per la partenza. Vennero a prendere la bimba per portarla a Mosca. Che vuoto. Che tristezza senza di lei. Che freddo. Non vista, mi congedai da lei ripetutamente. La piccola sembrava triste e se ne stava lì, silenziosa e malinconica. Può darsi che questo sia l'ultimo bacio fra madre e figlia, ma non posso fare altrimenti. Meglio così per tutte e due. E il cuore piange di gioia per il prossimo incontro con lui e di dolore per il distacco da lei. Russia, Finlandia. Incontri luminosi e fugaci, distacchi tristi e prolungati. Lettere non potevo scriverne. Le sue giungevano a intervalli lunghissimi. La mattina mi sveglio con un senso di scontentezza, come se fossi vicino a te ma non con te. Con lentezza snervante trascorre la giornata e di nuovo la sera porta con sé visioni. Visioni e nient'altro. Tutto il mio essere è pieno di te, vibra del tuo canto. La sensazione è nuova e fresca come allora, quando i nostri sguardi si incontrarono per la prima volta e senza parole dissero tanto l'uno all'altro. Ed ogni volta quando ci separiamo, quell'unico desiderio, che ancora una volta sola, possiamo incontrarci. Abbi cura di te. Ricordati che in ogni minuto mi ricordo di te. Arrivederci. Arrivederci. No, no. Noi vivremo ancora. Continueremo a vivere. È impossibile che non sia così. Sì, vivremo. Vivremo. Non lo so, mio sposo, mio amato. Io mi limito ad avere fede semplicemente. Pietroburgo. Ci separammo per rivederci, non avevamo alcun dubbio, il mattino seguente. Chi dir potrebbe arrivederci d'in sull'abisso d'un giorno solo? L'abisso di un solo giorno lo ingoiò senza rimedio. I muraglioni grigi di Pietro e Paolo, grigi muraglioni di fortezza, si chiusero attorno a Lev. Là si svolse il processo, là fu decisa ed eseguita la condanna a morte. Rifiutò di dire il suo vero nome. Rifiutò anche di difendersi al processo. Thank you.